piangere. Che poi ridere, che poi ridere. Non si crea né si distrugge, non puoi fingere. Qualcosa che ti sale, non la puoi distruggere. Con te, non puoi mica fingere. Non puoi mica fingere. Intanto fumo ancora e la testa non mi gira. Va in senso contrario ma ancora non mi gira. Una parte vuole scrivere, una scoppia a ridere. Mi viene da ridere, chissà cosa ne pensi adesso che mi immagini scrivere. Testa bassa sulle pagine mentre mi chiedo come sarebbe vivere immerso nella polvere. Un libro di favole tra mille di regole. Non è così, scrivo favole da anni 16. Lo faccio per credermi diverso o solo per credermi inverso da quello che vedi. E poi te che mi chiedi se è più vero quello che scrive rime o quella ancora in piedi che le rilegge mentre ride. Che puoi ridere, che puoi ridere. Non si crea né si distrugge, non puoi fingere. Qualcosa che ti sale non la puoi distruggere. Con te non puoi mica fingere. Che puoi ridere, che puoi ridere. Non si crea né si distrugge, non puoi fingere. Qualcosa che ti sale non la puoi distruggere. Con te non puoi mica fingere. Non puoi mica fingere. Continuo a ridere, lo stesso che parlava di gabbie e maschere. Mi posso parlare come uno specchio, riflettere. Sale, non so cosa sia, tiro il freno, non dell'auto mia. Un pezzo d'energia che torna ad essere solo energia. Non mi creo, né mi distruggo, ma nemmeno cambio. È questo il brutto. E continuo a ridere. Sei lo stesso che parlava di gabbie e maschere. Puoi ridere di te come se niente fosse, ma non mentire a te mentre ridi e dici forse. Mi distruggo e mi creo, né gioia né dolore, né mi chiamo reo, mi va bene così. A terra dalle mani, riparto da qui. Le mani dalle mani e ci rido su. Che puoi ridere, che puoi ridere. Non si crea né si distrugge, non puoi fingere. Qualcosa che ti sale, non la puoi distruggere. Con te, non puoi mica fingere. Che puoi ridere, che puoi ridere. Non si crea né si distrugge, non puoi fingere. Qualcosa che ti sale, non la puoi distruggere. Con te, non puoi mica fingere. Non puoi mica fingere. Mi sento ridere come quando grido e stringo forte le palpebre. Come a chiudere tutto stretto nelle mani e correre. Come lasciare un segno tangibile. Come lasciare il segno e diventare invisibile. Come quando fuori piove, bleffi alla grande, ma è dentro che sei altrove. La risata diventa una maschera, un ghigno di catrame, la faccia di plastica. Tiri e fa male, non è come dire e fare. È solo un sorriso, ma Dio sa quanto fa male. Che puoi ridere, che puoi ridere. Non si crea né si distrugge, non puoi fingere. Qualcosa che ti sale, non la puoi distruggere. Con te, non puoi mica fingere. Che puoi ridere, che puoi ridere. Non si crea né si distrugge, non puoi fingere. Qualcosa che ti sale, non la puoi distruggere. Con te, non puoi mica fingere.